Fedeltà, Russell Denman, gennaio 2016. A cosa sei fedele? Che cosa potrebbe significare avere fede nel nostro più vero e più profondo io? Che cosa potrebbe significare che la persona che amiamo ha fede nella sua, nella propria verità, bellezza e bontà? Il maestro Zen Sunryu Suzuki spesso parlava sull'avere fiducia nella nostra natura di Buddha, ma per me questa fiducia implica una specie di fiducia in quello che noi siamo veramente. Dietro ed oltre le nostre nevrosi personali, ferite, punti deboli, eccetera, c'è l'incondizionato io originale che non può essere corretto, abbruttito dalla vita d'ogni giorno. È come se le nuvole non lasciassero alcuna traccia nel cielo, nel grande cielo blu. Avere esperienza diretta di questo più largo senso dell'io cambia ogni cosa. Con rinnovata fiducia noi possiamo lavorare con i nostri limiti personali e con le spiacevoli macchie brutte senza così tanta disperazione. La vita sembra fattibile, sembra possibile che ci si possa lavorare anche con i nostri problemi. Per essere chiari, non ci si sente ancora meravigliosi o positivi quando le nostre limitazioni storiche sorgono e attraverso questo genere di autoricordo, rimembranza, non ci sentiamo vinti. Mia moglie Linda recentemente mi ha mostrato come un filosofo austriaco e filosofo visionario austriaco, che sarebbe Rudolf Steiner, usò il termine di fedeltà per segnare questo, per sottolineare questo genere di vedere nelle nostre relazioni, e vedi la citazione alla fine. Noi possiamo sinceramente chiederci questa domanda: a cosa sono fedele? Vivo in un campo percettivo che che conferma le mie insicurezze, i miei limiti e peccati. Il significato originale del peccato è essere fuori luogo, come nel fare un errore. Scelgo di enfatizzare questi aspetti delle persone che amo. Quanto spesso io sono fedele alla più alta, più profonda, al più alto, alle cose più alte e più profonde in me stesso e negli altri. La nostra esperienza della vita è modellata dai nostri schemi di attenzione e percezione. La libertà umana è possibile principalmente perché la nostra capacità di cambiare i nostri modi di fare attenzione, comprendere, percepire, pensare e muoverci. È possibile grazie alla nostra capacità di cambiare. Il grande dono dell'essere umano è la libertà di ricreare un mondo attraverso i nostri cervelli che sono plastici, sottolineare le cose, il più profondo e il più vero, non significa che noi dobbiamo ignorare gli schemi doloranti e di sofferenza che noi adottiamo. Noi possiamo onestamente esaminare o valutare noi stessi e gli altri, mentre nello stesso tempo possiamo essere fedeli alla bontà che c'è anche sempre. Percepire il bene essenziale della vita non è difficile. Noi tutti abbiamo avuto molte esperienze di questa bontà quando eravamo bambini, anche quelli che sono nati in una condizione di sfida. Noi tutti abbiamo sperimentato momenti di profonda connessione o unità con la vita che crea il senso preverbale che ci dice che la vita è buona, è bella. Molte descrizioni che noi abbiamo letto nella letteratura spirituale rendono questo stato, fa sì che questo stato suoni così grande e raro che noi non rendiamo onore ai modi nei quali il nostro senso di completezza, di collegamento sorge nella nostra esperienza quotidiana. Ci serve della guida e della pratica nella nostra attenzione per riconoscere per riconoscere i modi semplici, ordinari e frequenti nei quali accadono questi momenti. Una pratica della meditazione seduta è molto d'aiuto per accordarsi a questi stati momentanei ripetuti spesso diventano tratti e diventa naturale avere fiducia nel vero io. Noi possiamo allora essere fedeli all'amato, collegato, intero essere con la maiuscola che noi siamo. Nelle nostre relazioni più intime noi abbiamo bisogno di altre persone o almeno di un'altra persona che veda la nostra essenza. Quando qualcuno può testimoniare quello che Buddha chiamava la nostra bontà di base, la nostra il nostro cervello sociale e relazionale può incarnare questa conoscenza. Gli schemi neurali di stima ed amabilità allora diventano più profondi. Uno dei più grandi doni che noi diamo ai nostri partner, ai figli e agli amici è essere fedeli a quella persona unicamente squisita che vive dietro quegli occhi. Questo è una delle più alte e più significative espressioni di amore. Per ripetere, questa fedeltà non è una negazione della nostra confusione o dei nostri abiti negativi. Infatti, noi possiamo ora avere fiducia di avere sempre da affrontare, da vedere le nostre dolorose sembianze come madre Teresa chiamava questi errori di identità. Il giudizio negativo del nostro sistema nervoso spesso dà come risultato nell'abitudine di cercare quello che è sbagliato, dà come risultato l'abitudine di cercare quello che è sbagliato in noi stessi o nei nostri partner. Quanto diverso sarebbe è quando noi possiamo accettare la conoscenza, accettare, riconoscere e lavorare con i nostri abiti dolorosi, negativi e conoscere profondamente, innegabilmente nel nostro più intimo, nel nostro nucleo più essenziale, che quella per quel tratto di personalità non è l'essenza di quello che noi siamo. Questa fedeltà è un atto di attenzione, intenzione e amore che possiamo noi tutti scegliere liberamente e impegnarci in questa direzione di consapevolezza.